Letture di Radio 24. Dalla grande bellezza trionfatore agli Oscar alla grande delusione di Cannes. In pochi mesi il cinema italiano è passato dalle stelle alle stalle. Ma forse sulle stelle non c'era mai stato, almeno a livello internazionale, dove l'unico cinema italiano che continua ad essere apprezzato è quello che da noi per molti anni è stato superbamente snobbato, ovvero il cinema di genere. Eppure l'Italia era in concorso con 3 film di grande spessore. Che cosa non ha funzionato dunque? E ha davvero senso prendersela con la giuria, tacciata di essere troppo nazionalista, oppure lamentarsi per lo scarso sostegno che il governo darebbe al cinema italiano? Non avrebbe più senso invece fare un po' di autocritica, cosa che ai nostri supponenti registi riesce spesso molto difficile? In realtà la Francia ha vinto perché ha saputo raccontare gli immigrati senza il buonismo che caratterizza le nostre produzioni cinematografiche, commenta Francesco Borgonovo su Libero. La Palma d'Oro è andata a Dipan di Jacques Audiard. In questo caso lo spunto, diciamo, sociale è l'immigrazione. Dipan, il protagonista, fa il portiere tuttofare alla periferia di Parigi, dopo essere fuggito dallo Sri Lanka. Con queste premesse, se si fosse trattato di un film italiano, ci saremmo trovati davanti un polpettone intriso di buoni sentimenti. La storia lacrimevole del povero immigrato, anzi profugo, scappato dalla guerra e costretto a vivere in condizioni miserevoli in periferia, vittima del razzismo degli italiani. Invece Audiard ha scodellato tutt'altra opera, un film violento, potente, scorretto. Scopriamo che il buon Dipan in realtà non è una vittima, bensì un guerrigliero, una tigre tamil per la precisione. Ha lasciato il suo paese, dove si è dato da fare nella guerra civile. Ha ragione o ha torto, non sta a noi deciderlo. Per approdare in Francia ha assunto un'identità fittizia. Si è creato una falsa famiglia e cerca di ottenere i documenti per traslocare in Inghilterra. Dunque, da queste parti di buonismo non ce n'è. Semmai c'è l'evidenza del fatto che non sappiamo chi ci mettiamo in casa. E si dimostra che cosa produce l'immigrazione incontrollata, l'inferno della banlieue. Il nostro Dipan, per arrotondare, si mette al servizio di un boss nordafricano e finisce invischiato in una brutta storia di ultraviolenza fra gang di spacciatori del quartiere. Il portiere tigre tamil, per difendere una donzella in pericolo, riprende in mano il macete e, come ai vecchi tempi, si mette a mulinarlo in giro. Insomma, la vicenda è tutt'altro che edificante e strappalacrime. Ci sono carne, sangue e bassezze. Opere del genere da noi non si vedono. Su temi come l'immigrazione, le teorie accoglienti la fanno da padrone. E non si tratta solo di una questione biecamente politica. No, è proprio una faccenda di prospettive, di larghezza degli orizzonti. Prendiamo per esempio Chronic di Tim Roth, premiato a Cannes per la sceneggiatura. Narra di un infermiere che si occupa di malati terminali. Si parla di eutanasia, dunque, ma anche in senso più vasto di umanità. E viene in mente il provincialismo, la banalizzazione ideologica con cui trattò l'argomento Marco Bellocchio nel suo film Su Eluana Englaro. È su questa differenza di visione che dovremmo riflettere, sulla qualità e la profondità dell'impegno dei nostri cinefili e intellettuali. Nel frattempo, ci resta poco più delle belle favole di Garrone. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Francesco Borgonovo Perché l'Italia ha perso a Cannes, da Libero del 26 maggio. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani, oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Letture di Radio 24. Monopoli, il più popolare dei giochi da tavolo, è stato brevettato nel 1935 da quello che per molti anni si pensava fosse anche il suo inventore, Charles Darrow. Solo negli anni 70 si venne a sapere che il gioco era stato inventato 30 anni prima da una donna, Elizabeth Maggie. Ora un libro le rende finalmente giustizia. Elizabeth Lizzie Maggie era una dattilografa di Washington che si dilettava di poesia, recitazione, piccole invenzioni. Ad esempio, brevettò un marchingegno per far scivolare più facilmente la carta nel rullo della macchina da scrivere. Agli inizi del Novecento, quando le donne non avevano diritto di voto, guadagnavano molto meno degli uomini e l'unica possibilità che avessero di progredire era quella di sposarsi, Elizabeth Maggie creò il Landlord's Game per propagandare la teoria della single tax di Henry George, che prevedeva che solo la proprietà terriera dovesse essere tassata mentre tutto il resto doveva restare al 100% dell'individuo. A raccontare la storia di questa protofemminista e gli albori di un gioco da tavolo diventato una sorta di ossessione nazionale è ora The Monopolists, Obsession, Fury and the Scandal Behind the World's Favorite Board Game di Mary Pylon, giornalista del New York Times e del Wall Street Journal. Nel gioco di Lizzie si giocava con denaro finto. C'erano proprietà da acquistare e vendere, tasse da pagare, ferrovie, la casella va in prigione. Insomma, un prototipo del Monopoly, praticato nella comunità utopica di Arden, nel Delaware, che applicava la single tax, fra di loro anche lo scrittore Upton Sinclair, tra i quaccheri di Atlantic City e nel Williams College del Massachusetts. Litz ne creò anche una seconda versione, antimonopolistica. Se un giocatore creava ricchezza, venivano premiati anche tutti gli altri, ma prevalse la prima. In quegli anni il furto di idee era all'ordine del giorno e aziende dell'intrattenimento come Parker Brothers e Milton Bradley, oggi possedute da Hasbro, si contendevano i diritti del gioco delle pulci o del ping pong. Spesso chi praticava un gioco popolare apportava modifiche a sua volta. Charles Darrow si dichiarò alla fine inventore ufficiale del gioco di Lizzie, creando qualche regoletta nuova e facendo ridisegnare il packaging a un amico, che tuttavia non ricevette un centesimo quando Darrow vendette i diritti alla Parker Brothers nel 1935. Quest'ultima pubblicò anche il Landlord's Game originario, che però uscì ben presto di produzione, cancellando così ogni traccia di Lizzie e della sua invenzione. A riscoprire la storia fu negli anni 70 un professore di economia di San Francisco, Ralph Anspach, citato in giudizio da Parker Brothers per aver creato un anti-monopoli per illustrare le sue teorie. C'era la crisi del petrolio, i prezzi della benzina alle stelle e nel gioco di Anspach i concorrenti cercavano di rompere i monopoli e di compiere azioni di servizio pubblico. Come un Davide contro Golia, il professore vinse quando riuscì a dimostrare che il gioco esisteva ben prima del 35 ed era perciò un bene comune. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Frediani Dietro una grande invenzione c'è a volte una grande donna, truffata, dal venerdì di Repubblica del 22 maggio. Eyes alive like stars, flying down the boulevard. You're making up your mind, and you're stitching up your heart. We'll meet you where the tide meets the wind. We'll meet you where the tide. Nelle scorse settimane, il circolo letterario Pan American Center ha assegnato un premio ai sopravvissuti della redazione di Charlie Hebdo. Molti scrittori appartenenti al Pan hanno però deciso di boicottare la premiazione, perché secondo loro il settimanale satirico francese non tutela le minoranze, ma si limita a deriderle. Ma una protesta di questo tipo nasce da una formula che riduce qualunque complessità sociale a risentimenti del genere più semplicistico, commenta il politologo americano Paul Berman in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il. Nel 2005, in alcuni paesi, la stampa prese la decisione più coraggiosa e corretta ripubblicando le vignette danesi sul profeta Maometto, e nel gennaio di quest'anno ha preso la stessa decisione ripubblicando le vignette su Maometto pubblicata da Charlie Hebdo dopo il massacro. Sono state decisioni corrette, perché nel 2005 e di nuovo quest'anno le vignette rappresentavano una notizia degna di nota alla luce delle proteste violente in tutto il mondo e perché nulla di quelle vignette offendeva le norme della buona educazione. Nel mondo anglofono, invece, i grandi mezzi di informazione in generale hanno rifiutato di ripubblicare le vignette e ora ne vediamo le conseguenze. Il mese scorso, negli Stati Uniti, i dirigenti del Pan American Center hanno deciso di dare, in occasione dell'annuale serata di gala organizzata dall'associazione, un premio ai giornalisti di Charlie Hebdo scampati al massacro. E diversi scrittori ben noti hanno deciso di boicottare l'evento, affiancati da altri 200 che hanno firmato una lettera collettiva di protesta o hanno vergato di loro pugno altre proteste individuali. In tutte, Charlie Hebdo veniva additato come una rivista di destra e razzista, dedita a umiliare i poveri immigrati musulmani francesi. Queste erano accuse strane, considerando che Charlie Hebdo in realtà è una rivista di sinistra, solidale con gli immigrati. È vero che Charlie Hebdo ha sempre combattuto gli islamisti, ma l'islamismo è un movimento politico reazionario ed è normale che una rivista tradizionalmente di sinistra lo combatta. Charlie Hebdo ha ristampato le vignette danesi e ha pubblicato vignette originali su temi islamici. E lo scopo di queste vignette era criticare gli islamisti, non gli immigrati. E gli islamisti hanno risposto. Alcuni anni fa qualcuno lanciò una bomba incendiaria dentro la redazione di Charlie Hebdo. Gli islamisti vedono in Charlie Hebdo tutto quello che l'islamismo combatte. Ma perché gli scrittori americani si schierano dalla parte degli islamisti in questa polemica? Io sono del parere che la protesta anti-Charlie in America sia stata generata da una moda ideologica. È la stessa moda che ha prodotto il ritorno del politicamente corretto fra gli studenti universitari americani e il mobbing via Twitter a opera dei fautori delle identity politics. È una formula che riduce qualsiasi complessità sociale a risentimenti identitari del genere più semplicistico. La formula che ritrae i bianchi eternamente intenti a opprimere i neri, gli imperialisti europei eternamente intenti a opprimere il terzo mondo, gli Stati Uniti intenti a opprimere chiunque, gli etero a opprimere i gay, i cristiani e gli ebrei a opprimere i musulmani, i francesi a opprimere il Nord Africa. E mai neanche una sfumatura o una stravaganza personale a turbare queste semplificazioni. In quest'ottica peculiare, Charlie Hebdo deve per forza essere giudicata come una rivista di bianchi che si divertono ad abusare dei loro privilegi di bianchi per tormentare i non bianchi di fede musulmana, una rivista che ha scelto deliberatamente di umiliare e opprimere gli immigrati. I contestatori erano convinti che il Pan American Center, rendendo omaggio ai giornalisti di Charlie Hebdo sopravvissuti, contribuisse ad alimentare un triplice pregiudizio del mondo occidentale: contro l'Islam, contro il Nord Africa e contro gli arabi. Ed erano convinti che il PEN, con quella scelta, avesse deciso di appoggiare la linea catastrofica della politica estera americana. Eppure ogni aspetto di questa tesi è dimostrabilmente falso. È inconcepibile pensare che gli antirazzisti gauchisti di Charlie Hebdo volessero umiliare gli immigrati. Nessuno al Pan American Center ambisce a incoraggiare i pregiudizi contro l'Islam e gli arabi, e tantomeno contro il Nord Africa. È assurdo dire che il Pen, premiando dei cartoonist francesi di sinistra, abbia voluto offrire sostegno alla linea catastrofica della politica estera americana. Charlie Hebdo non è la voce francese della politica estera americana. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Paul Berman, Gli scrittori, le vignette e noi, dal numero di giugno del magazine Il. Nel panorama della canzone d'autore italiana ci sono stati artisti che hanno raggiunto una grande popolarità e che poi, per qualche ragione, sono stati dimenticati. L'oblio è il male peggiore in cui scivolare, scrive Enzo Gentile nella prefazione al suo libro Lontani dagli occhi, dedicato a cinque grandi cantautori ingiustamente dimenticati: Fred Buscaglione, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Nino Ferrer ed Herbert Pagani. Il quadro che emerge in molti di coloro che furono protagonisti e ora restano relegati a qualche trasmissione centrata sul come eravamo indica un preciso denominatore comune, almeno nei casi affrontati qui di seguito. Siamo innanzitutto di fronte ad artisti realizzati, inseriti in un contesto ufficiale, in un ciclo industriale che negli anni 60 e 70, il nostro centro di gravità prevalente, conosceva il suo massimo fulgore. Non tutti ne godettero in ugual misura, ma i riflettori rischiararono comunque la loro strada e quella dei loro compagni. Non siamo, insomma, al cospetto di dropout, di derelitti, di marginalità. L'industria del disco funzionava e ospitò ognuno di loro pur con alti e bassi. Erano artisti intorno a cui spirava una splendida aria, capaci di descrivere bellissime e colorate traiettorie nel cielo della memoria. Ma la zona scura, come la desertificazione in alcune aree del pianeta, avanza implacabile, fino a inghiottire i suoi interpreti migliori. La ricerca qui dedicata ad alcuni degli artisti che hanno attraversato la nostra esistenza vuole proprio aiutare a decifrare il complesso quadro determinatosi oltre i confini della parte più felice delle loro carriere. Come se l'avvento di un virus misterioso avesse fatto irruzione nei rispettivi mondi fino a presentare il prezzo da pagare. Il trade union che lega tra loro le figurine del nostro album mette in evidenza un terreno comune di vite spezzate, tarlate spesso da agenti esterni. E poi c'è quel rumore di fondo di strumenti malati che hanno accompagnato personalità forti, identità nette, eppure fragili per un pezzo del loro tragitto, in certi casi fino agli ultimi giorni. A sopravvivere una flebile voce interiore con cui oltrepassare le frontiere della fama per andare al cuore delle cose. Se ne sono andati tutti, chi in silenzio, chi nel fragore di una morte improvvisa, quando la parabola discendente era un rischio concreto e il silenzio ne avrebbe contagiato la verve, la creatività, il senso primo del loro lavoro. Missing in action. I nostri compagni di ventura ad un certo punto si sono persi, allontanati dalla riva. I radar dei mass media non li hanno più inquadrati, i partner commerciali hanno iniziato a schivarli. L'esilio involontario, forzato, o la scossa provocata da qualche meccanismo che non funziona più come dovrebbe, l'insoddisfazione di chi si muove in panni troppo stretti o tagliati da un sarto strabico, i prodromi di una stagnazione che portano al cul-de-sac i nostri magnifici cinque, qualcuno in termini conclamati, altri in modo più sotteso, paludato, servono anche per parlarci di una realtà discografica e di mercato in salute, ricca, lontanissima e insospettabile se guardata con gli occhi di oggi. Che comunque, nonostante un discreto benessere complessivo, suggerì anche disparate pulsioni suicide, Nino Ferrer, piuttosto che la scelta di una fuga dignitosa, di un lento addio con stile. Erano tempi di vivai, di talent scout, di produttori e di team di lavoro allargati, di compositori alti e di autori popolari che giocavano sullo stesso campo di un nobile intrattenimento, dove l'aggettivo leggera, che seguiva il sostantivo musica, era il generoso, amabile, positivo complemento a un concerto che oggi mette solo tenerezza, desueto e sprofondato com'è nella pletora di pretendenti inadeguati. Una società dello spettacolo con un minimo di istinto di conservazione, scrupolosa nel difendere il patrimonio, i gioielli più preziosi come la cultura di base, avrebbe protetto in altro modo i suoi rappresentanti, invece che escogitare, tra ritardi e mancanze assortite, quel cerottino che fu la legge Bacchelli, a sostegno degli artisti indigenti o in difficoltà. Al contrario, la tutela di certi beni, nel nostro caso gli artigiani della canzone che ha testimoniato la storia italiana recente, è rimasta nelle mani di famiglie, amici e appassionati che provano a tenere alto il concerto di continuità e di eredità artistica grazie a premi, iniziative, serate sostenute con sempre maggiori affanni dalle istituzioni. Anche soltanto per riaffermare come la qualità sia impermeabile al logorio dei tempi e della malagrazia con cui viene trattata. Lontano dai occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Enzo Gentile, Lontani dagli occhi, vita, sorte e miracoli di artisti esemplari. Laurana Editore, 190 pagine, 13 euro.